opciones. Legalize him. Practico los pa' no me enfermo, my man. Got it offshore, le hice de Cayman. Scalo de S&P, no me mombran. Que salgo di livello come un super saiyan. Mi atteggio da me siamo, non mi fido di Pietro. Io mi fido solo di chi dice firmo il decreto. Ma se vengo ben lagato di pedine a culetto, rimangio tutto come un ruminante nel garrubetto. Così ricco che i miei soldi io li do alle fiamme. Li do alle fiamme, le fiamme gialle. Invece di arrestarmi saltano alle spalle di chi ho la pioggia giona come Bob e Valle. Chi mi accusa di tangente diventa secante. Chi doveva stare zitto diventa squillante. Ma vado dal mio medico curante, che mi prescrive più di un antimicotico per il grande. Fiscale.